stato più libero avrei sparato di brutto. Io non riesco a vedere la cella, ma che flash, vedo che è interessante, ragazzi. Ok, che cosa ti fai tu? L'unica cosa positiva che ce l'ho sul tetto, ce l'ho. Vabbè, ma è sempre bassa però. Succa, motosega scoppio, da 52, 65 euro, ma di plastica, che è tutta plastica, però, sono una mala di ferro. Che antenna è? Motosega, motosega. Una motosega. Boh, no, forse mi domando e dico se sto parlando troppo forte io o è troppo complicata la lavorazione. Una motosega. Abbassati. Ah, sì. Una motosega devi comparare. Oh, guarda, ci ho migliorato. Di niente. Addirittura. Ho sempre di una pacchetta. Allora, tirino. Allora, 1, 2, 3, prova. Adesso? Perché se... troppo amplificato me. Guarda. Ti faccio 3 pacchette, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, abbassato. Ehi, va bene, non urlare, perché se urli non si capisce quello che dici, perché vai in distorsione, capito? Io ho capito, ma io non sto urlando, adesso ho abbassato, cioè praticamente è a un quarto dell'amplificazione, prima era metà, è quello che voglio capire io, guarda. Allora, per me va bene, vai a tu. Adesso è a 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, questa è posizione 2. Ecco, ehi, avanti. Ciao, buonasera a tutti, chi c'è in ruota? Ciao Tino, ho sentito a Luca, poi chi c'è? Quello è, resuscitato è. Sono solo gomoso, non ti preoccupare. Ma per carità, nel senso, resuscitato era una frequenza. Sì, dai, ciao Tino, buonasera, ben sentito. Luca, che ho sentito, non lo so chi c'è ancora. Sì, ho Antonio Como, Claudio, non bike perché sta mangiando. Ok, saluto a tutti, dai, avanti Luca. Ciao Massimiliano. Tu? Massimiliano. Ciao Lu, buonasera, ben entrato. Cioè, ben entrato, scusa, ben sentito. Ciao, anche Antonio, ho sentito, basso basso. Dici che prima di andare a mangiare saluto, se no poi invece che l'ascolto non ho salutato. Buonasera. Ciao, ciao Claudio, vai, mangia, vai, impegnati la bocca, già mia. No. Aspetta, non è pronto ancora. Bene, ciao, ciao, ciao, ciao, sento offesa, ma se mia, intendevo dire, non ti abbiamo più sentito, ecco. Vabbè, come hai detto tu, sono risuscitato, va. Sono salito a prendere una cosettina, va. Ho sentito, siccome era acceso, sta qua, perché era da un bel po' spenta, quindi ho acceso, sono andato a salutarvi, va. E ci fa piacere, va bene. Claudio, guarda la... senti la modulazione, ha cambiato qualche cosa per te? No, sì, la verità, perlomeno con 430 io ti ascolto sempre bene. Ma per capire io, come stavo dicendo a Luca, perché ho messo a 1, ho messo a 2, metto a coso, per dire, solitamente io ce l'avevo sempre così l'amplificazione, vedi? Bene, lasciala stare così, e vabbè io ce l'ho sempre a, con 430 ce l'avevo sempre a 2,5, con 440 la tenevo a 1,5 così. Ma è quello che voglio capire io, così adesso per dire, la 2 sarà alto, poi grande distorsione, non la posso ancora un po'. Per me va bene, non stai saturando per niente. Magari i baracchini, esatto, non lo so, Massimiliano, tu lo senti bene? Massimiliano, ma già è parito, Massimiliano. Ehi, acqua, scusa, ero distratto, dimmi. Attino, ho detto, se lo ascolti bene. A chi? Attino, ma non mi senti? Un bel basso ti sento qua, forse non sta funzionando bene per la radio. Guarda a me, Massimiliano, se la radio mia fa in distorsione o meno. No, va bene, ottimo, ti ascolto benissimo. Ma non mi ha messo più, ma come ti si infatti? Ma non vale l'attenuatore inserito. Tino, tu mi senti bene o basso? Va bene, sono sempre detto cosa. Stavo scherzando, qua, ero lontano, ero distratto. Ah, il cazzo mi ha dato il cazzo, vabbè, 20 watt, 50 modulati, il microfono sempre quello, va bene. Avanti bombolo, comunque ti sei perfetto, lascia così, non toccare niente, come sempre, se non te l'avrei detto. Ma siccome Luca mi ha fatto passare, l'ho passato, magari. persona che sta parlando di soluzione, capito? È Luca che fa di soluzione. E questa invece come sta andando dopo un po' di tempo spenta? Mettili com'è? La bomba! Va bene, va bene. Ottimo, ottimo. Siamo te l'ho predetto anche a te. Ok, va bene. Ancora questo casino qua. Ma poi io me ne accorgo anche quando fa troppo, Luca, perché c'è la barretta dei DB che mi va oltre la soglia, quindi quando va oltre magari va in distorsione. Questo è un pelino appena all'interno, quindi. Sì, Luca, così è. A questo primo punto quello che risponde, boh. Ho capito, cosa ti permetterà? Ogni tanto ti svegli. No, è che vado a rispondere ai messaggi su WhatsApp. Su WhatsApp. Bello. Beh, adesso vado a cenare, arrangiatevi voi. Mi raccomando, spianatina calda. E con guanciale. Vabbè, è proprio un assaggiato. Cosa fai? Se che ti vengo in muta? Maledetto. Stavo dicendo, no, ma Antonio Bombolo, perché così basso? Perché è un'abitazione veloce, è una bumera sassa di vecchio. Ah, vabbè, che non avevi carro lì, lo sapevo, però un po' troppo basso. Vabbè, questo è una altezza di antenne, anche a me mi arriva. Mi arriva più Pio, Santiago 7, però già riesco a capirlo, Massimiliano, pure io arrivo basso. No, se no, il tuo segnale, lui. Ah, ok, dai. Vabbè, come piove un po', bastante non se ne va per i fatti suoi. Perché l'ho messo un po' più bassa, capito? Perché mi stava girando le balle. La metto sempre quella parte là, il radiale, perché se lo metto qua o al centro mi dà problemi stazionari, non c'è verso di regolarle. Ho fatto di tutto e di più. La metto bene e non mi dà problemi. Cosa stai dicendo, Massimiliano, che avete parlato in due con Antonio? Cosa stai dicendo, Massimiliano? Io? La Romania? Non lo so, ho detto... No, Claudio mi ha detto che sono basso, così è? No, c'è la bomba, cazzo basso. No, ho detto, rispetto a prima, come ti ascoltavo tempo fa, forse stai usando poca potenza. Segna la radio. Sto usando... Aspetta. Una quindicina di watt, qua. Però sto usando l'antenna l'altra, non è la manto fa questa. Vabbè, dai, cioè il 915 modulato 920, dai, cerco cioè, gira, non è voglio occhiali. Cosa hai detto? Non... Voglio la radio Massimiliano. Sì, va bene. Ma quella adeguata a lui non c'entra da fare. Se quella che ha provato, quella è la migliore, poi con 60. Non avevo dubbi. Ne dirà conto, Massimiliano, adesso ogni radio. Una risposta, aspetto lui. Di Claudio già lo sa che mi ha contattato stamattina. Lui, va bene, va bene. Quando vai alla corrente a fare il Gonto, hai visto quanto la gente a Gonto io o lui? Sì, no, Massimiliano, caspita, ogni radio. Rispetto a come ci va prima ha trovato il rimedio, capito? Però con quella, con quel tipo, mentre con 140 e 80 non ha mai bugato bene. Forse gli do poco di più pure. Vabbè, se parlate in due non si capisce un cacchio, né uno né l'altro. Ho detto che con quel tipo di radio va bene, ma con 140 e 80 non ha mai bugato bene. Perché là? Non so perché, pure sono compatibili, però per lui va meglio quella lì, 44, non c'è niente a fare. Anche perché l'aveva già provata qua e la modulazione era completamente diversa. Cazzo quanto spinge però, porca miseria. Quella va bene, l'ho provata io qua, è perfetta, ottima. E adesso mettiamo il 48. 48? Quella... Ma lo sai, va. No, le volevo dire, Antonio, se è basso, le do linea retta, me lo sto vendendo, c'ha 320, Antonio. Chiudo anche l'alimentatore, poi devi cambiare antenna, se no te la sciogli è quella. No, parabara, che è così. Parabara. Lasciamo così, Massimiliano, pure un tubo di sciogli. Ma allora, vai, buco, l'hanno investito in Viale Dante. Non avete conosciuto a Parava, quello con le orecchie a sventola? Sì. E poverino, non ha investito una macchina, scendeva l'altra in Viale Dante. Ha voglia che lo punisci, voglia pure la suretta. Ah, adesso sto andando alla piazza a farmi due fettine di asinello. Mica si bruciano. Ehi! Ma scusa, la canna a culo non ce l'avevo la roba, no? Ah, ti no, devi chiedere quella, non a me. Ok, c'è. Quanto ne vuoi? Ma di asino? No, di asino no. Ehi, di asino c'è la freccozza. Uia, la mazza che ti ne varia. Antonio, chiedili il vermentino. Vermentino stai vendendo tu? Ehi, meglio va come radio questa. Va bene, Antonio, va bene. Andiamo a vedere lontananza, ma in lontananza. Massimiliano, mi senti? Certo che ti sento, Antonio. A Puglia. A Puglia che ti sento. Sei un po' bassino di segnale. Ma la radio non è fortissima, capito, Antonio? Allora sta curato, lascia vedere. Allora, è un piccolo innesco. Ogni tanto devo fare quel difettuccio. Usava la prospera. Ma avete parlato in due. Ma solo lui. Guarda, questa se va meglio. Per me è uguale. Questo le sono ove, non può essere uguale, Claudio. Sì, certo, un bel spinge, no? Ma Luca è andato, no, ti spinge un bel che è quello. Sì, un attimo, solo un attimo. Sai perché ha fatto l'innesco, Claudio? Perché io ho tolto la mano da sopra il microfono. Perché lì ci vuole con la massa, maledetta, che è sempre base di così. Io a 4.30 gli ho attaccato la massa di nuovo dietro, attaccato al muro, se no fischiava lo stesso. No, vabbè, ma poi quando devo, già lo sai, devo cambiare posizione qua. E poi lo metto davanti, capito, se rimane, se no già attacco l'altro. Ehi, vabbè, tu contatta quello che mi hai detto stamattina già. Dovrebbe essere interessato perché è amante di quella radio. No, vabbè, ma non è neanche per lui, dice, è per un amico, boh, non lo so. Comunque già mi fa sapere, non è un problema. Prima come ti ho detto stamattina già con lui. Hanno volato un sacco di anni dove ti ho detto, capito? KK, avanti Lugaria. Tutti così carregavato già andati. Che differenza notti dal 30 al 40? Bene va questa. Mamma Civiglia, bene va questa. Cosa Cla? Ho detto che differenza notti dal 4.40 al 4.30, bene va questa. Sì, sì, va bene, va bene. Cos'è questo, 430? 430 meci 60. Va bene, auguria. Questo è il coso, il magnum, Massimiliano. Ehi, attiro, questo è il magnum. Lo spinge bene. Ehi, auguria, lo spinge, no. Questo fa mezzo watt e c'ha una trentina, 35 modulati. A me piace più questa modulazione. È bella, cazzo, Massimiliano. Questo è tutto chiuso, ecco chiuso, per l'ascolta chiuso. E tutte cose, no? Un leggero, non sto sbagliando io, un leggero eco c'è, proprio basso basso però, Un leggero eco, è chiuso, come fa a essere leggero eco? Fai un passaggio, tieni la portante inserita, come fai, prova a dire ciao, e tieni la portante inserita. Ciao Tino. C'è. Leggero, si è sentito anche un'altra voce sotto, sì. Proprio che fini sono io, che è inutile. Ci vino, Tino, che. Maledetto. E come mai, vuol dire non chiude del tutto? Non me l'ha detto mai nessuno questa cosa, vabbè, vuol dire che magari non chiude del tutto, già mi gioco. Allora, succede così, che quando tu finisci a parlare, molla il mic, non se ne accorgono, però se tu tieni il mic inserito ancora per qualche secondo, è ripetitivo. Guarda vedere se è chiuso così. C'è sempre effetto di cotto alla fine. E io, vabbè, rimane, va, pazienza. Adesso, davvero, mi dici, adesso perché mi sono avvicinato alla colonnina, se no non me ne ero accorto. Comunque è molto bella la modulazione. Se ti sto dicendo che io la preferisco all'altro, al primo che ho utilizzato, ma nonostante tutto l'ho avuto per anni. Per me, mamma mia, a me ha bruttendo un capo. C'ho questo rumoraccio, c'ho, mamma mia. Chi so che coso di internet è che ne lo butto giù. Va bene, va bene. Antonio, riprendi. Cappa, c'ho questo rumoraccio sul 20, deve essere quel cavolo di coso di internet, deve essere. Mamma mia, ma me ha voluto dire un capo. Sì, vabbè, capita. Io mi sono bizzona che sono un po' con i miei Luca, Cirino! qui esce fuori frequenza, Luca. Secondo me è toccato un po', però. Va bene, va, quindi questa va bene lo stesso, è accettabile o qualcosa? Questa è la grande, la tua. Massimiliano, cosa da dire? Vanno bene tutte. Sì, no. Mi hanno contattato un paio di cinesi, se vuoi vendere le cavie. Ma quelle ce le mangiano, no, no. Ma non credo. No, allora, mi è uscito poc'anzi, mi è uscito una... allora, aspetta, 1067 persone che mi hanno contattato per quello. Allora, scusate che io chiudo, ma che vado a cenare. Che è pronto questa volta, così poi mi guardo la partita. Ciao Tino, ciao Massimiliano, piacere averti ascoltato, ciao Antonio, ciao Luca, Luca e chi è in agguato, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Flavio, ciao Massimiliano. Sì, dai, riprendo anche io e vi lascio, va. Grazie per le due chiacchiere, ci sentiamo non si sa quando. Ciao, buona serata a tutti, ciao ciao. Va bene, ciao anche a te, allora Massimiliano, va. Ci ha fatto piacere ogni tanto. Dai un colpo anche tu che insomma fa piacere. Ciao Massimiliano, ciao, risentiamo il prossimine. Ciao ciao, beh pure io chiudo perché sono un pochettino stanchino stasera. Non ho più gana. Buonanotte a tutti, a tutti in circolare. Ciao ciao, ci risentiamo alle prossimine. Ciao Antonio, ciao anche a te, buona serata, buon fine serata, dai. Mi ci sono sorrendi Lucci, mi ci sono sorrendi, dai, buonanotte a tutti, ciao ciao ciao. Bene, va bene. Ehi, allora, ciao a tutti, dai, Massimiliano, Marco Dani, è entrato. E... Antonio e Claudio, dai, va bene, allora chiudo anch'io. E ci sentiamo domani, dai. Ok. Avanti. E Luca, Luca, ma c'era anche Roberto. Sì, allora te ne sei visto. Ah? Ho detto, adesso te ne sei accorto. Perché ti ho detto in Sassarese, l'ha visto. Roberto, ancora ci sei. Ma c'era Roberto Quadrato anche. Sì. E Luca, vabbè, Luca lì si sarà in Serra di Luci. Luca è maluccato, non saluta, non se ne va. Meglio Luci che la ganna. Allora di chi sa vedere la bici a vita? Io mi ha giarrata, tu mi ha bici, ora di luce a bici, anche la giarrata. Mio figlio, si può cambiare il connettore dell'entrata delle cuffie? Ciao, cosa? Ho capito tutt'io. Ho detto, se si può cambiare il connettore dell'entrata delle cuffie di un telefono, si può cambiare? Dimmi che telefono è, così ti dico se si può cambiare o no. Sì, che cacchio di telefono è, di mio figlio. Vabbè, devo vedere la marca, se non ce l'ho presente. Voglio ti mando un messaggio. Comunque te si può cambiare. Diciamo l'80-90% si può cambiare. Previsione, quanto costa e quanto ci vuole cambiarlo? Perché anche lui mi ha detto, ma però se lo porto a aggiustare, magari ce lo tengono 2-3 giorni. Sì, devo sapere che modello è, tu mi dici, lui è un iPhone, lui è un Samsung GC, un esempio, no? Quindi il modello, che modello è? Ho capito, ma all'incirca è in lavorazione, è in prezzo, non sono quasi tutti gli stessi, a parte l'iPhone. Dipende dal telefono, secondo che telefono è costa il prezzo, capito? Non lo so, ti fai una trentina di euro, ma non lo so, non sono sicuro. Sì. Va bene, ti faccio sapere. D'accordo, non c'è problema. Vabbè, io lui affettato hai. Dai, ci sentiamo, dai. Ti sto affettando un po' di guanciale, ma appena appena, perché sennò poi lo sai che fa male. Infatti te lo volevo dire, che io tengo la tua salute, lo sai, ti voglio bene, ma tu stai esagerando ogni giorno, insomma, non va bene, al polizirolo. No, vabbè, ieri era per esempio l'ardo col mirto, oggi guanciale. Beh, cambia, sì, il colore cambia. Il colore è quello, il gusto pure. Luca, Luca di guanciale. È vero, Luca Carnese Sirello, me. Forti, si era sociata Luca, ma ha detto, boh, non so che gusto aveva neanche. Perché tu la devi masticare, cerchi di sentire il sapore, non la devi succhiare. Il retrogusto. giusto, noti. Va bene, non venga giù magari di là, guardi che butti giù, così non è assaggiare le cose, devi piano piano masticare, non così, capito? Poi se è fa, vabbè, è un'altra cosa. Matti, lui ha già mangiato un mangaglio di lino. Vabbè, i gusti sono gusti, veramente Luca, ma tu così è detto strano, Tino non mi ha detto niente. Cazzo, Tino è un buon gustaio, così è, ma di tutti. Insomma, vabbè, che a me mi piace ben cotta. Cazzo, io credo si la vai a soletta, di mio. Ecco, ma a casa mia c'è quello mi piace, a Tino vuol dire da sangue, è una gelatina mangiata, giusto? Sì, però vabbè, ti ripeto, io gusti e colori non si discutono, però quel tipo di carne lì, se la cucini troppo, perde anche il sapore, giustamente. Lì vorrebbe, come si suol dire, fosse stata una panna più grossa, bruciacchiata esternamente, internamente vorrebbe bella rossa, capito? E quello è il sapore che... Poi se a te ti piace ben cotta, perde tutte le sue qualità, quindi non è che... per ragione, Luca. Senza ombra di dubbio, ma Gugiar a carne rossa, no? Allora te la Fiorentina ti faccio vedere, anzi l'ho cancellata, ecco, alcune foto di una Fiorentina di 2 kg che è stata fatta, era bruciacchiata fuori, ma dentro era carne viva, cioè Luca le ha viste quelle foto. Magari così riesco a mangiarla, però guardando la rossa così, rosso, roba mangiata. Vabbè, poi giustamente ben cotta si intende che non vede il rosso, ma all'interno deve essere sempre un pochino, insomma, tenera. Se poi la lasci più del dovuto diventa dura. Ci vuole lo spray. Rosso si secca, no, lo so. Vabbè. No, vabbè, già sai che secondo me è meglio della carne di cavallo. È buona, un pochino più dolce risulta, no? Infatti mi sono messo il dubbio, cazzo, ho detto, è la stessa carne, ho detto, Tino, secondo me l'avevi cotta troppo per i tuoi gusti, Lu, l'avevi cotta ai tuoi gusti, però purtroppo ti ho detto, quella è una girata come il cavallo, ta-ta, perché sennò poi si fa dura, perde i gusti. Ok, mi sto sbagliando. No, è giusto, ma l'ho spiegato poi. Ti ripeto, Lu, ognuno ha i suoi gusti, non è che io non posso dire no, è fatta così perché è buona così. A me piace così, vorrebbe fatta così, ma se a te piace per la panna più cotta o tipo soletta, insomma, perde tutta la qualità. Sì, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe, non lo metto in dubbio. A gusti, anche Marino lo stesso, una girata, come c'è il figlio, cotta. Guarda, io ho cucinato sempre per tante persone quando si fanno le cose di caccia, voi no? Le compagnie sono intorno alle 40-60 persone, giustamente non è che puoi accontentare a tutti, però nella media le persone che sono hanno dato sempre un buon voto alla cucina, però c'è sempre quello che ti dice ma troppo usare, ma va più cotta, ma quella, ma quell'altro, a tutti non puoi accontentare, giustamente, quindi ognuno di propria bocca se la farà lui. E si conferma, vabbè, lo so, c'è quello che mai gli piace meno salata, quello che gli piace più salata, a me la piace di mezzo, poi sono detto, quando fa arrosto il pane di Marina fa un po' salattina, però ce lo perde, dai, ne mette un bel, però lo perde mentre cucina. Vedi, anche io molte volte, quando soprattutto quando faccio arrosto, io l'assalo quando sto cucinando, però c'è gente che ti avviso, non è che guarda che sale l'ho già messo, poi chi ne vuole di più se lo mette, giustamente, però se la fai troppo salata non va bene, capito? Perché un po' lo metti tu e nel cucinare se lo perde, soprattutto anche quando fai il porcetto allo spiedo, addirittura io ho visto un cuoco nel nurese che l'ha fatto bianco, completamente bianco, capito? Poi io lo devo assaggiare, però non era per niente salato. Sì, no, vabbè, troppo salata no, non va bene, assolutamente, a me non piace, non c'è più gusto alla fine, a parte che fa male, una via di mezzo, dai. È vero, vabbè, però, è così, ognuno soffre al proprio gusto. Luca ci butta un pacco di sale dentro una fettina. Ma Luca già cucina bene, che l'ha fatto la mia presenza, e l'ho mangiata a puro. Allora, se Tino mi dice questa qua è buona come carne, e io la prendo, continuo a prenderla, capito lui. Poi c'è quello che la vuole più cotta, meno però il cavallo, l'asinello così, la fiorentina, purtroppo sono carni che vanno cotte così, che uno non deve dire ma era dura. Se a te ti piace la carne ben cotta, non prendere asinello, non prendere cavallo, capito, non prendere fiorentina. Non prendere pisellone. Ah vabbè, lui è a gusto, comunque era buona, non so se c'era una buona. Diciamo un po' duretta perché forse l'ho cucinata troppo. Ma va bene lo stesso, te a tappeti, ci ho messo dentro un panino, ci ho messo un po' di ketchup, e cosa, e c'è scesa, buona, buona. No, dopo di questo, guarda, ti cancello l'amico. Il ketchup. Anch'io, ciao. Ecco, ognuno lo mangiamo di male in piatto, uno si la butta a capruni luci, No, vabbè. Io sono contrario a tutte le salse, nella carne buona parlo, perché non dico che non mi piacciono, per carità, io lo assaggio anche la barbecue, la salsa barbecue, quello che c'è, quello che vuoi, però quando è come che mi metto la fiorentina con la salsa barbecue, se non la batti, devi sapere assaporare il gusto della carne vera e propria. E con questo ti ho distrutto, è così, e che c'è proprio mettere nei culi, nei views. Dammi da WhatsApp, ti. Adesso mi è arrivato. Che storia. Così è. Quanti mesi ha questa fa? 3 mesi 21 di questo mese. Ma è femminuccia? Sì, Lea. Beh, anch'io molte volte faccio così, quando purtroppo sai vanno, devi tappare quel buio che manca. Qua è un po' indeciso perché essendo piccola me la devo grattare io, se devo andare a fare qualche cosa o il bus andare, chi me la tiene? E chi su? È un casino. Vabbè, però d'altronde, guarda, io adesso ho provato. Ma lui non te lo ricordi tu, già lo conosci benissimo. L'ho visto stamattina, c'era Moreno, ma veniva da Palmas. A voi lo conosco a male, certo lo conosco. Lui fa del trattore, lo sai, no? Sei toccato una violina, io sono con voi. Ma tu dimetti, cosa c'è? Mi serve una cosa vai. Beh? Una cosa vai. Sì, mi serve, ma l'altro che me lo procurava, adesso mi è in diretta, ore fa. Io su Facebook sono bloccato ancora per 10 ore, 3 giorni mi hanno bloccato, bastardi. Non ho capito, scusa. Ho detto che su Facebook mi hanno bloccato per 3 giorni, secondo me per quella diretta quando stavo smontando la tela Claudio. E cosa è successo? Facebook mi ha bloccato per 3 giorni. Addirittura. Così è. Aspetta che mi guardo questo video già pubblicato. Luca. Oh? Il ballerino era Alghero, era con Moreno. Tanta pioggia. Arrivo per 21. Si prende giù con Moreno. L'ho trovato stamattina, ma così per caso, da lì a... cacchio, eravamo, cazzo, vabbè, dopo te lo dico, qui c'è la nuova. E da chiuso il vero, ciao, ti sto parlando del più dormeno. E poi ho detto, se ne buscava uno di quei canali. Trovate vicino al nuvolo. Aspetta, ti dico proprio il posto, non lo ricordo. A Ghilarza, a noi veniva il nome, devo guardare. Siamo a Ghilarza, al campo di Ghilarza, che c'è la Gabriella da giocare. E quindi da stamattina è sì, in piedi. Scusate, sai, anche stanco, no? Vabbè, dopo mangiato già mi sono tutto usato, non è che... se no non sarei stato qua. Adesso vabbè, una cosa e l'altra, temporeggio un pochino e poi... mi fa la roba per lavoro, a domani, a combattere di nuovo. Ma se piove non lavori, no? guarda, stiamo mettendo a posto dei mesi perché se Dio vuole che parta il lavoro, la cosa dobbiamo essere pronti, quindi stiamo facendo un po' di manutenzioni e rimettendo in sesso un po' i mezzi. Ti mando delle foto. Ma da che trombita è? Qualcuno, a me rompi in ballo questo cane, va, sì, non è idea. Vabbè, aspetta, allora, un sacco. Bella. Dovremmo arrivare a momenti. Questo era del fratello di Angelo 33. Era un pezzo di ferro, guarda come abbiamo fatto. Se ti arriva, perché c'è ancora la connessione un bel lento. Grazie, fiammante uscito. Sì, io sono convinto che se lo vede lo rivuole indietro. Sei carattere chiaro, e ma l'ha venduto? No, me l'ha prestato per fare questo lavoro qua, però sono sicurissimo che insomma lui ha fino al lavoro bruciato. Sai come sono queste persone, sono lo rivuole, magari lo lascia, non lo so, tanto io non sono di più nulla. Vabbè, grande, più grande di Angelo. Sì, il grande, il giovane tra. Ma con Angelo non hanno mai avuto a che vedere, cioè uno si poteva vedere con l'altro. Ah, ecco, sempre delle guerre c'era, così. E addirittura un giorno, ma tanti anni fa, eravamo andati a fare una ristrutturazione lì dentro dove abita Angelo, no? in quell'entrata lì, per andare dietro a casa sua, già, non so se ti ricordi. Iniziamo a mettere i ferri, ha messo la dolacetta, fa contro guardia, il buon agente. Vabbè, io avevo tutte le ragioni del mondo, nel senso che quella è casa sua e lui voleva fare la padrona, no? Un attimino, prima mi dai i soldini e poi provo il sacco di fare di piace. In quel caso lì, guarda, Angelo aveva ragione. Certo, sai che è casa sua, non è che puoi entrare in casa mia e fai quello che vuoi, no? Ma poi è sempre stato un tipo che voleva, è un dittatore, capito? Voleva fare sempre padre e padrone, nonostante tutto lui era il fratello maggiore, quello e quell'altro, però lasciato in mezzo alla strada, purtroppo, quindi anche lui si doveva tutelare. Infatti gli volevo vendere qua. Solo che se non gli danno quello che vuole non dà niente. Non so quanto vuole lui. Diciamo che la partita non è una delle migliori, nel senso che non è nuovissima, però c'è valore. Ah vabbè, lì buttano giù e costruiscono, a voglia se cosa adesso paghi a 2 milioni di euro, un esempio sta facendo, e li costruiscono, quello le guadagna quadruplo. Sì, vabbè. Vabbè, però bisogna vedere anche chi lo prende, perché non c'è più gente che fa cose serie, capito? Quindi non lo so. Se trovo un'impresa seria, allora può darsi che può farlo fare. Lì se costruiscono c'è una bella cosa. Sì. Hai visto quello, 30 anni fa avevano fatto il coso, lì al Bassanna, non so se ti ricordi com'era, era praticamente c'erano le scaline a salire, era un pezzo a piedi e poi entrava nel bar e quindi c'era il bar là sotto quanto. Praticamente Gianni cosa ha fatto? Ha venduto il bar, quindi l'hanno praticamente raso al suolo, hanno fatto una platea di 4 o 6 appartamenti, però giù a lui gli hanno dovuto rifare il bar ristrutturato alla grande, quindi era una cosa. E in più gli hanno dato, mi sembra, un appartamento a lui e un appartamento alla mamma. Comunque però, ne stavo parlando che ogni tanto mi chiama, capito? Magari c'è qualche problema al televisore, ne avevo sistemato una volta e poi ce l'avevo rotto, ma era passato più di un anno e niente, poi sono riandato e niente, me ne stavo parlando per quanto riguarda la vendita, solo che ripeto, se non gli danno quanto ha chiesto non fa niente. Va bene, ma anche io sono sono contento che lui faccia così, perché ognuno deve essere nella sua posizione, non è che deve stare lì a sottomettersi alle cose degli altri. Ecco, se io voglio prendere una, adesso ti faccio un esempio stupido, voglio prendermi, che tu penso che l'hai fatto, voglio prendermi una radio a 100 euro, a 100 euro te la devo dare, e non dovete fare giochi sempre a rilancio, a rimasso, no, va bene, capito? È giusto che sia così. Vabbè, ma io gli ho detto a lui, basta prendere i soldi che ti danno, qui te ne basta, non te ne stai qua, te ne fatti fuori e ti fai, e ti fanno un'altra vita fuori, e quanto qua non c'è niente. Sì, ormai, vabbè, lui, non so, sono un po' senza vederlo, ma se non mi sbaglio lui ha, credo, una sessantina d'anni, no? Sì, più o meno. Allora, quindi, sì. Partire per fare cosa? Cioè, se hai una pensione, magari puoi andartene nei paesi dove paghi poco di tasse per le varie, allora se ancora hai forza lo puoi fare, però voglio dire, se non hai quattro che rientrano, dove fai? Stavo guardando un altro filo, ma non c'è, solo, non c'è. Come c'è in comune 8. Vai tu, no, no, c'è Valentino, no? No, non c'è la... Come si chiama? Non c'è la... L'anno di nascita. Ah, ma ce l'hai... Vabbè, mi sembra che era uno, se no, vabbè, non glielo ho dato, ma... Sì, perché... Io te lo spiego un altro momento. Comunque, c'è un orso di... E non ha cognome suo, Orso Bianco. Sì, bravo. Vabbè, ti spiegherò. Grappa. C'è un campo di ciupa ciupa in dia. Sta mangiando l'ardo, quindi. Non si degna più la sua presenza. Grappa, amore! È così, Ma vabbè. Sta mangiando l'ardo, vabbè, che ci abbiamo tu sento. Cosa? Ha già detto, mangiando l'ardo e poi la glicemia 800. Rapido, si fa la puntura. Aspetta che vado a vedere che marca è il telefono di Gabriele. Grazie, hanno venuto in televisione. Ma allora tu hai balle stanotte. Ci vuoi dire, ti posso fare un coso da Luca, un video party. No, pensavo che c'era la partita, c'era un po' di sport, c'era domenica sera, domenica notte. Invece sono tutti con la vita, c'è il cacciatore. Mi ha Filippo, mia canale 5. Sempre lo danno. Sempre lo danno. Aspetta, vieni qua Nicola, come si dice? Xiaomi Redmi 7, cos'è? Ah, Xiaomi. Xiaomi Redmi 7, sì. Aspetta. Cerca, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Questo va saldato però, Cosa gioco? Sì. Allora, Xiaomi Redmi Note 7. Note 7? Sesso caffettelli. Sì. Affittasa. Bombazza. Vedi il culaccio. Cazzo, la barzelletta della mortadella, no? Mi aveva bisogno di questa mortadella. Ma all'inizio è lì, affitti, c'è anche in cui sono 20 kg, 21 kg, affitti, buon mazzo, mi dia il coraggio. È molto bello a lui. Hai capito, quindi non poteva far masserizia, invece non dà. Allora che hai zicculaccio, curatello, fiocchetto, mandolino, in tazzo bunno. E io se gli ha fatta. Cario! Andiamo a cazzo gli ha barriato ad Eva. Sta piovendo? No, qua no ancora. E come? Allora sta venendo lì. Cazzo gli ha barriato ad Eva in occhi. Perché deve venire per forza qua, non può continuare ad andare avanti. Non lo so, sta andando. Luca si può cercare in pippa. E io sono in salita, quindi. Comunque agli apprezzemo, è pronto. Cosa lo stai dicendo tu? Oh, il casinello è troppo buono. Guarda, no, ne ho fatto 6-7 fettine più 3 di capocollo e ne sono mancate ancora 3 pacchi da fare, 3 pacchi da 6 fettine, 7. Ma che si mangia di sei babbuduio pure? No, voglio dire che andava a Callegra l'assaggia, magari l'hai pure congelata a babbuduio, cioè, ma scherziamo. No, io per dire la verità l'ho messa sul Puglio perché si mantiene meglio, capito? Dopodiché sì, alcune le ho congelate perché noi volevo congelate quanto assieme, non perdono niente se le fai come ti dico però. Certo, non dovrebbero perdere niente, no. Perché molta gente ce la sbatte in frigo direttamente così, e non è il caso. È una carne molto molto delicata, a me. E Luca, novità, hai provato qualcosa? Mi lasciate fare un'occhiata, aspetta. Oh, sì. Ui. Luca ha detto, mi stanno i fratelli, un po' di calamari e piglienti, ve la reggo. Ma. Ma. Vabbè, aspettiamo, cosa vi dica? Ha detto, vi devo andare io un burro. E poi che favoraggio. No, ma è Carmelo, sinceramente non l'ho invitato, non è che... impegni di lavoro, quant'altro non sono mai andato. Ma Luca ha detto che l'avevo invitato, però ha detto andare in barca, per favoraggio. Cazzo, se si affonde l'ogni dribbile, purtroppo. A Pigliassoli sì, Ma certo, dove è da Luca in barca andando a largo a Calamari? È finita, a Calamascio può andare. Ma non accetta provocazione. Ma che? Ha detto, io vado, ti mando il foto. La dice vado da mare, ha girato l'acqua scutta, ragazzi, ha detto, mi devi andare a largo, mi. E le bagna asciuga, questa la motore si è inciudente. Comunque ho provato quella motosega, non ce n'è. E quale? Quella arancione che muove, proprio la svirgina, non era tanto portare anche la tua, sennò l'avevo fatto. Ma toccato, insomma, così, un problema c'è che quando appoggiamo la battaglia. Ah, vero? Ah, vedi? Sì, grande pina. Ma ti ripeto, guanti nuovi, l'unica cosa che mi è successo è l'ultimo camion che ho fatto lo smalone e quindi mi appunto, una mi appunto. E vabbè, meglio dell'agape, anzi se ti vuoi l'agape, mala sushi, quella non lo so che puntura può avere. Guarda, anche quella della Palma è velenosa, devo dire che quella della Palma è molto velenosa. Sì, quella sì. Tumba di spina c'erano comunque. Comunque ti, visto che si è rotto quello, si può mettere l'adattatore che c'è su Amazon, si mette praticamente nell'ingresso dell'alimentazione, ma senso come cuffia, perché quello lì va saldato sulla scheda, va smontato quello vecchio e va saldato quello nuovo, ma ci sono i riduttori che altri telefoni non hanno, non ce l'hanno, perlomeno per quanto so io, tipo Samsung, così sì, c'è il riduttore, lo inserisce dove ti ho detto, dove inserisce il caricabatterie e ascolta da lì. E come si chiama? Proprio ordinando, aspetta che mi altro, dove l'hai visto tu? Si chiama adattatore USB, allora, adattatore jack cuffie USB per Xiaomi Redmi Note 7. Ma l'avrei visto su eBay, l'avrei visto. Lo scrivo su internet e te lo dà, poi lo vedo e te lo dà. Però sto venendo qua su Amazon, mini adattatore tipo C-Jack per Xiaomi Redmi Note 7 smartphone audio USB, auricolari, caricabatterie, cuffie nero. E costa, aspetta, e poi non è disponibile qua, comunque già c'è, magari lo troviamo da un'altra parte, boh. Lascia vedere. Vediamo, copia e incolla. Ormai lo incollo su eBay, aspetta. Mandami il link, oppure mandami quello che hai scritto tu, dai, che così lo copio. Però quello che ci vuole realmente, perché io non so più neanche dove cercarne. Cercalo un attimino mentre in bagno. Costa 9,65, 20 euro ti viene ti. Scusa, ti ho chiamato, ero in bagno. E me l'ha mandato? 20 euro costa. Vabbè, ma mandalo, lo voglio vedere, così almeno vedo un po' se ti interessa o meno, capito? Aspetta, vado su Messenger. Questo non sei tu, questo guanciale, vabbè. No, questo vabbè, dai. Hai capito, maledetto. Beh, due glicemia o tu zetto, va. Mi ha mandato tre foto, un video, sono fotografie quelle, non fa sapere se è buono o meno. Ah, io c'è anche per di Gurusui, vecchi. Ma andata male questa cosa. Se mi apre Facebook, sì. Te lo mando, aspetta. Ma mandamelo su WhatsApp. Che poi cerco io, se riesco gli ordino direttamente da qua, dai. Aspetta un attimino, aspetta. Un attimino, solo vale la pena. Se per dire il tuo lavorato mi costa 30 euro e metti il jack, va meglio, non è che. Sì, ma sai cos'è? Questi telefoni qua. Aspetta un attimo, cazzo la mamma, perché cazzo mi si blocca? Va a pigliare in culo, so che non mi fai pubblicare, va bene. Non posso pubblicare. Ho già domande per volta su Messenger, to. Fanculo, bastardi. Vabbè, solo per il semplice motivo che stai mettendo l'antenna, cosa... Ah, ecco perché ti hanno bloccato, adesso ho associato. Quando avete fatto le antenne a 40 metri? Sì. Perché vedi, sono cose tipo giochi pericolosi, capito? E' mezzo gabizzato. Poi ultimamente mi è arrivato. Ultimamente, non so se è tuo però, ultimamente poi c'era quel fatto, no Luca, quel fatto che quel bambino si era buttato, ti ricordi? Quindi ho associato adesso. Si conferma, aspetta, se riesco te lo mando su WhatsApp, aspetta. Via. Alla fine ti conviene mettere questo jack, sì. Cos'è? Dico, alla fine ti conviene mettere questo adattatore. Vediamo se va bene a lui, sì. Allora, mi è arrivato il link, adesso lo cerco, vediamo un po', vediamo se lo apre qua direttamente, su eBay. Sì, quello vuole essere lì, dove c'è carica batterie, e poi si attacca il jack a fianco, e poi ascoltare la musica. Ma qua mi dice 5,24 più 9,94 di spedizione, così è. Allora, no. Selezionare tipo adesso Xiaomi, poi Xiaomi Redmi Note 7, ti costa 9,65 più 9,94, 20 euro. Dopo lo faccio, io voglio vedere un'occhiale. Aspetta che rispondo a Ciccio, guarda che la carbonara adesso fa male. Mandando foto di guanciale di far carità. Luca, tu? Ricordami il nome del telefono, non lo ricordo. Xiaomi XC, così ho la X, Redmi Note 7. Aspetta, con la X, nomi così, nomi. Redmi Note 7. Ok, l'ho trovato, vediamo un attimo, l'ho trovato. Allora, qua mi dice, la connessione della carta è andata a fine, ma perché mi, in un primo momento, quando io trovo la pagina, mi dà le fotografie degli adattatori, dopo due secondi mi spariscono e mi mette la scritta. Cioè? È una cosa che non riesco a spiegare neanche io. Allora, quando io apro la pagina, adesso io ho scritto quello che mi ha detto tu, non ho fatto quello, se bifemia, se Xiaomi Redmi 7, in un primo momento, quando apro la pagina, mi fa vedere tutti gli adattatori con i prezzi, dopodiché dura 3 secondi questa questa schermata qua, e qui mi manda invece le scritte tipo Redmi Note 7, chi cerca trova prezzi, adattatore USB su Amazon e così via, capito? Cioè ti apre un'altra pagina. E come che mi apre un'altra pagina? Sì, e mi toglie in evidenza quello che mi ha fatto vedere prima. Ma su eBay intendi? Su Google. Tu vai a tratti su eBay Google. Vai, ti immagini, vediamo un attimino. Boh, vabbè, mi ha dato altre cose. No, no, non hai visto. Devo richiudere, aspetta un attimo. Ho fatto caso sì, d'accordo, e ci vedici da una cosa di pedalosomi. Sta caricando, vediamo un attimino. Allora, questa è chiavetta. Allora, questa è una chiavetta USB 2, USB 3, in fondo Android, il PC non è questo, non è questa, quindi ho sbagliato. Questa è un altro tipo di chiavetta. Ma non riesco a trovarlo, boh, perché mi ha tutte gli annessi diversi, boh. Ma scusa, tu mi hai dato il link, ti clicca su quel link e te lo apre. Sì, però me l'hai mandato sul telefonino, quindi sul telefonino mi viene male, aspetta a vedere. Tu apri Facebook o il computer e clicchi sul link che ti ho mandato su Messenger. Ah, ecco. Vabbè, è arrivato dello primo, no, mamma mia. Vediamo un attimino cosa... Adesso ho aperto Facebook. Ma devo mettere però... questa chiavetta qua, bellina. Allora, vediamo un attimino. 5.24 costa questa qua. Sì, ma devi mettere, se vai nelle impostazioni di eBay, e devi mettere il modello del telefono. Quello magari è il primo, non so di che telefono sia. Tu devi mettere del Xiaomi Redmi Note 7. Aspetta un attimino, te la prendo, è un po'. Lento di connessione qua, siamo in campagna. Ma non c'è maniera di amplificare il segnale dalla cabina, Lu? Dalla cabina dove? Sono a 200 metri la cabina, se io metto un segnale, un'antenna per il E9 via capo, cosa cazzo devo prendere? No, nulla. Ma via Ethernet? Sì, però io ho la cabina a 200 metri, capito? E quindi, allora, vediamo un attimino, mi avevi detto Xiaomi, non c'è Note 7, c'è Xiaomi e basta, va bene, poi modello di telefono, vediamo un attimino, Redmi Note 7, giusto? Esatto. Mi viene a costare 9,65. E più la spedizione? Più 9,94, giusto? Bravo. Va bene, aspetta che ti faccio una cosa, mi manda Gabriele. Vabbè. Perché io lo compro qua, magari dice, ma qua non va bene, blu, blu, blu, blu, sai, ma ragazzi d'oggi sono così. Sono andato poco fa su YouTube, praticamente non mi fa vedere il video come viene smontato, non c'è. Ah, ho capito. Vabbè, aspetta, mi mando la fotografia, se lo va bene, sono 20 euro, devo ricordare che domani lo prendo. Una volta richiama magari di risaldarlo e poi ti viene dentro il telefono. Devo vedere prima come si fa, come tutti i lavori che faccio, no? Un'occhiata così quando sono sicuro. Certo, certo, è giusto. Adesso vediamo. Non ho dato un messaggio perché in camera non ho più la voce, sta studiando, quindi non ce l'ho visto. Quindi adesso sinceramente, vabbè, la domenica non c'è, perché pranzo, ma solitamente al lavoro mangiamo un panino, quindi, oppure molte volte il principale è una pasta asciutta, ce la dividiamo, siamo in tre, quindi non è che... la domenica mangio un pochino più del dovuto, diciamo, perché sei lì a tavola, sereno, tranquillo, e quindi sbrano. Quindi non c'era. No, io colazione, pranzo, cena, tante merenda, burro. Ma vedi che su faccia di tutta. Aspetta che l'altro gli ha incollato le mascelle, non riesce più a parlare. Mi sa che non gli piace più, non gli piace più vivere a Lucca. Allora. Mamma mia. Vabbè, sai cos'è, a noi tutto ci fa male, soprattutto le cose più buone. Io ho comprato pane guttiao, quello a pezzi piccolini, buono, piccante, sale uno spino. Buono, buono veramente. Sì, anche a me piace, però mamma sta prendendo quel, oggi l'ho assaggiato, ma lo prenderò un po', quel pane carasau che è un po' più duro del solito, non so se l'hai mai assaggiato. No, con l'angustina mezzo chilo, noi a 3 etico, 3 euro costa, molto buono. Non lo so, questo te lo faccio vedere tu. Vieni, vabbè. Bene, sì, vabbè, dai. Va bene perché ha adattato di lui. Eh? Dico, va bene. Sì, vabbè, basta mandare un messaggio, lo ti confermo, capito? Penso di sì, dai. Oh, vabbè, c'è anche la garanzia dei bei, quindi, poi anche, vediamo. No, un momento, vediamo un attimino se riesco, aggiungo il carrello. E vediamo cosa ne c'è fuori, perché forse posso già acquistarlo, vabbè, lasciamo perdere per adesso, perché posso fare un'altra carta. Infatti vedi, se facevo, compro subito, che dovevo pagare 62 euro, perché nel carrello c'era anche un lampione solare che costa 42 euro, di quelli con la batteria ricarica pannello solare, e praticamente si accende la notte quando scende il sole, si accende la notte, poi la mattina quando si alza il sole si ricarica la batteria e così via, capito? Tramite il pannello solare. Certo, il pannello solare è già incorporato con 3 luci LED, ma enormi, mi illuminano per mezzo piazzale, caspita, li ho presi, solo che i primi che ho preso li ho pagati quasi 30 euro, questi costano 43 euro, vabbè, però non vale la pena perché lo risparmi in elettricità e poi la notte è tutto illuminato, capito? Praticamente non sprechi energia, là. Appena scende il sole che fa buio, il tacro si illumina, quindi hai la casa illuminata, il piazzale illuminato e poi c'è il suo telecomandino, nel senso che puoi abbassare anche a distanza, mi sembra a distanza di 10 metri, puoi abbassare l'intensità del faro perché è sotto e poi lo puoi accendere e spegnere come vuoi tu, quindi va bene. Ma Luca che fine ha fatto? Cosa? Luca che fine ha fatto? Ho detto, gli si è impastata la bocca mangiando il cinghiale, adesso è un casino aprigliela. Ci vuole il saranchino ora, perché è tutto colloso. Adesso per ripicca non entra, ma tanto lo sappiamo. Ma la brittella l'illumina. Tutto illumina, anche la brittella. Naturalmente li ho comprati, sono belli, sono grandi circa 50 cm per 20 cm di larghezza e di altezza sono intorno ai 5 cm credo. E fanno un po' di luce, fanno una girazione notevole. Sì, io ho visto in un giardino. Infatti pensavo che erano qualche altra cosa, invece poi il proprietario mi ha spiegato che sono a energia solare, capito? Praticamente come si accendono con un sensore focolare, no? Come cala il buio, loro si accendono automaticamente, capito? Sì, io ne ho comprato due, ma prendete, la verità ne volevo uno che fisso, diciamo che funzionava così, e l'altro invece lo volevo quando adesso passava una macchina, una cosa del genere, si accendeva. Ma adesso sono anche quelli, però così che un po' di più, insomma vengono costare intorno ai 70 euro, 80 euro se non ricordo. E poi il giardino qua, non è interna, è stata così, ho fuscolato. Capito? C'è il sensore sotto il porticato, ce n'è due, una parte e una all'altra. Come a diventare, insomma, che si vede ancora, però non c'è più, si accendono i lampioni, tutti quelli che ci sono da un bel, capito? E la mattina come inizia a fare luce, boom, si spegne da solo. Sì, è una cosa buona. Eh sì, perché sennò devi tenere un timer.